La quiete dopo la tempesta. Passata è la tempesta, odo augelli far festa e la gallina, tornata in sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo, con l'opera in man, cantando, fassi in sull'uscio. A prova vien fuor la femminetta, cor dell'acqua della novella piova, e l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride per li poggi e le ville, apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passegger che il suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core, si dolce, si gradita, quand'è come or la vita, quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opere o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi men si ricorda. Piacer figlio d'affanno, gioia vana che è frutto del passato timore, onde si scosse e paventò la morte chi la vita aborria, onde in lungo tormento fredde, tacite, smorte, suar le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese, folgori, nimbi e vento. O natura cortese, son questi i doni tuoi. Questi diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena è diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacer quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirarti lice d'alcun dolor, beata se te d'ogni dolor morte risana.